Buonasera a tutti e un benvenuto ai non addetti ai lavori, diciamo agli ospiti che abbiamo invitato, alle gentili rappresentanti dell'Alliance Française con la loro presidente, la signora De Jager, e ai magistrati che hanno voluto essere presenti a questo nostro convegno. Io cercherò di essere brevissimo, quasi tacitiano. Dirò che quando per la cortesia di Emanuele Fragasso ho ricevuto questo libriccino, all'epoca del liceo classico lo chiamavano un aureo libretto, io sono stato, beh, non dico folgorato perché è una parola un po' grossa, San Paolo è stato folgorato sulla via di Damasco, mi è venuta un'idea ed un ricordo. L'idea è stata quella che una volta attuata ci trova qui convenuti tutti. Il ricordo è stato quello di un eroe della mia giovinezza, un eroe realmente esistito, non un figlio di Salgari o di Giulio Verne o di Kipling, ed è stato Cyrano di Bergerac. Un collega vicentino civilista dice sì, dice quell'incipit che hai fatto sull'invito va bene, però cosa c'entra lo spadaccino con l'avvocato? E beh, lo perdoniamo perché è civilista. L'avvocato che ha consuetudine di frequentazione con l'arringo penale, se non uno spadaccino, è un, non lo so se si dica un fiorettista. Io ho partecipato della sala d'armi per 2 o 3 anni e tiravo di fioretto, ma credo si dica proprio il fiorettista. Però qualche volta l'avvocato, di fronte ai fendenti della pubblica accusa, deve abbandonare l'arma bianca gentile che è il fioretto e impugnare la spada. Ma il ricorso a Cyrano di Bergerac mi è stato anche spontaneo perché lo stesso Cyrano e De Sèze sono 2 campioni. Della libertà. Voi tutti sapete la storia di questo spadaccino letterato, allievo di Gassendi alla fine del 600, del quale si dice Molière copiasse alcuni brani, ed era un uomo insopportabile perché non sopportava la presenza altrui quando questa diventava arrogante o c'era una sopraffazione, e quindi mi è venuto spontaneo questo accostamento con il nostro eroe di questa sera. Adunque, Cyrano di Bergerac e De Sèze. De Sèze, per chi ha avuto la fortuna di leggere la sua Aringa e i commenti che seguono, è stato veramente un campione, non solo paladino della libertà, ma un campione di coraggio, perché di fronte a una tribuna dove Robespierre diceva i nemici della rivoluzione non vanno processati, vanno uccisi, magari coerente con le idee della rivoluzione, di fronte a Danton che gridava noi non vogliamo giudicare il re, lo vogliamo ammazzare, egli, avvocato, imperterrito, ha proseguito sulla strada della difesa, avendo sempre come parametro di fronte l'uomo, Luigi XVI, che era diventato il cittadino Luigi Capeto. Ecco, questo ho voluto dirvi per giustificare questo richiamo e per spiegarlo anche al mio amico civile. Dirò di più, poi questa presentazione finisce con i 3 lemmi cari alla Repubblica Francese, libertà, uguaglianza e fraternità. Per la verità, questo motto non è coevo né di Cyrano né di De Sèze. È stato, secondo gli studi più recenti, è stato frutto del governo provvisorio della Seconda Repubblica, intorno 1830-1840. La libertà dunque, come espressione di difesa la libertà come espressione di cittadino. Mi viene in mente la meravigliosa poesia di Paul Éluard, quando dice: sulla soglia del sepolcro scrivo il tuo nome, sulle stagioni fidanzate scrivo il tuo nome, sul vigore ritrovato scrivo il tuo nome, e in virtù di una parola ricomincia la mia vita. Sono nato per conoscerti, per chiamarti libertà. Oggi è il 21 maggio, guardate le coincidenze. 21 maggio, 28 maggio 1871 sono stati i giorni della Comune. Combattevano per le libertà da una parte e dall'altra. Nel cimitero di Père Lachaise si sono combattute tre giorni della battaglia famosa, là c'è una lapide dove sto scritto ai morti alla Comune. È vero però che non lontano c'è il Sacro Cuore, la basilica, che è stata costruita perché era morto un generale cosiddetto legalista in quel punto lì. Tutti combattono per le libertà e De Sèze è stato un campione della libertà. Detto questo, e per non tediarvi oltre, passo senz'altro a presentarvi i nostri ospiti relatori, che ringrazio vivamente per la loro presenza. Il professor Massimo Nobili, ordinario di procedura penale Università di Bologna, e l'avvocato Emanuele Fracasso Junior dell'Università di Padova. Per primo parlerà il professor Nobili, che ci intratterà su questo argomento: il processo a Luigi XVI e il valore della legalità, crisi eccezionale o costante utopia. Prego, professore. Innanzitutto una parola di sincero ringraziamento agli organizzatori e anche all'avvocato Fragasso, che è stato cortese tramite, per il privilegio che mi viene offerto di essere qui ad affrontare questo tema, che costituisce un innegabile banco di prova per il processual penalista. Quel processo, quell'arringa, quel momento storico ci collocano in un angolo visuale privilegiato e, diciamolo, addirittura vertiginoso, perché ci conduce dritti dritti al cuore dei problemi, anzi starei per dire al problema, quello più arduo, quello più scottante, quello che ci fa, che mi fa paura. Che cosa è un processo penale? Che cosa distingue un processo penale da altri fenomeni? E le domande si fanno anzi subito ancora più inquietanti: ma esiste veramente questa entità che noi denominiamo processo penale? E che cosa significa valore della legalità? Cosa significa sistema penale governato dalla legge? E questo valore è ancora vivo oggi o è stato soltanto un valore storico? Ma vi è altro: perché quel processo, quella memoria difensiva della quale parleremo subito, si colloca come una delle punte d'iceberg all'interno di un ventennio che va dal 1789 al 1808, che contiene veramente tutto e ai livelli più straordinari per i problemi del sistema penale e del processo penale. C'è veramente tutto in quegli anni. Ad esempio, fu il ventennio nel quale si verificò, ma solo per ricordare due aspetti peraltro ben noti, una vera e propria rivoluzione copernicana, come l'ha chiamata Mauro Cappelletti, dell'epistemologia giudiziale, che condusse a un sistema completamente nuovo delle prove, il libero convincimento. Ad esempio, quegli anni, quel ventennio, condusse ai due tentativi, ai due testi legislativi di più avanzata accusatorietà che l'Europa continentale abbia mai conosciuto fino ad oggi. Non si è andati mai oltre, e anzi il paragone viene inquietante se si pensa che quel traguardo di accusatorietà, per giunta basato sulle giurie popolari, si collocò nel 1791 e quattro anni dopo lo si vide sgretolare. Non voglio desumere di più, però vengono degli interrogativi pensando al tentativo recente della legislazione del 1900, nostra riforma del 1987. 89, sgretolatasi questa idea dell'accusatorietà in pochi passi. ma non voglio girare all'intorno nei temi. E soprattutto, ecco, questo è, con ciò mi avvicino a gran passi, quel periodo storico ci consegna due modelli addirittura antitetici di processo penale. E la Ringa di De Sez, come vedremo fra un istante, ci tramanda due punte estreme, potrei anche chiamarle filosofiche istituzionali. Da un lato il processo governato dalla legge, dalla legalità, da regole normative precostituite, basate su una verità, su accertamenti che vengono raggiunti dall'interno. Su questa parola ritornerò più volte andando avanti. Esse stesse, queste verità, raggiunte tramite mezzi disciplinati dalla legge. Ma quel momento storico ci consegna anche il modello diametralmente opposto, quello di un processo che è governato da qualcos'altro, un processo che diventa anche lui qualcos'altro, asservito o comunque collegato a qualche cosa di esterno, a poteri diversi dalla legge, e quindi ci lancia anche l'immagine di accuse, di convincimenti, di verità, di conoscenze che vengono affermate tramite consensi. Oggi qualcuno direbbe le legittimazioni, parola che ricorre tante volte, volontà sociali, oggi dovremmo dire, vengono istintivi questi parallelismi, vedremo meglio, rapporti, affermazioni, spazi mediatici, così si dice, quindi qualche cosa che sta attorno e che va a riempire questa idea. Dunque due modelli veramente diametralmente opposti. Veniamo adesso direttamente alla memoria difensiva dell'avvocato De Sez, che si può studiare da tanti angoli sotto il profilo della storia, del diritto sostanziale, della deontologia forense, del coraggio, della umanità, della retorica forense, e io proverò a scegliere solo due o tre passi e, nonostante illustre uditorio, io in questo momento mi sento di parlare da avvocato ad avvocati, per dire che agli avvocati penalisti, come avvocati penalisti, per quanto adusi si possa essere alla routine, stiamo anche per dire delle udienze quotidiane, per l'avvocato penalista c'è sempre un momento magico, un momento incontaminato, che anche se si va avanti negli anni si presenta con la solennità, quello del dictum finale, quel silenzio magico, quell'istante che accompagna la pronuncia della sentenza. Se noi leggiamo invece le pagine di De Sez, vediamo che questo momento magico sul quale dobbiamo interrogarci, e vorrei interrogarmi, questo momento che dà il brivido, noi lo troviamo nelle parole iniziali. Il silenzio che gli si forma intorno, ciò che per un istante lui scolpisce come se fosse vero e di lì a breve scopre che vero non è, l'incipit di qualche cosa di diverso. Che cosa è questo qualche cosa di diverso? È o dovrebbe essere il momento della separazione, il momento del processo penale. E allora vengono subito gli interrogativi: ma perché separazione? Separazione da che cosa? Ed è mai possibile questa separazione? È saggia e benefica questa separazione? Ecco, questi sono gli interrogativi. Scorro le prime righe e ne faccio un'indegna parafrasi. Dice l'avvocato: il silenzio si fa palpabile, dal silenzio che mi circonda, pronunzia De Sez, comprendo che è arrivato, che stiamo entrando nella dimensione diversa della giustizia, il processo si scorpora dalla, queste sono parole sue, dalla collera e dalla prevenzione. Iniziano le forme, inizia l'atto solenne, che non sono vana formalità, sono valori, inizia il momento della imparzialità prescritta dalla legge, un mondo diverso, qualcosa che ci separa. Più oltre, mi sono annotato qui a pagina 14, l'avvocato ce lo spiega bene cos'è questa categoria da lui postulata, pretesa e non ritrovata di processo legale. Legalità penale processuale significa religiose precauzioni prese dalla legge stessa perché il cittadino, anche se reo, non sia mai colpito che da lei sola. Solo la legge colpisce, solo la legge governa. non consensi esterni, non volontà esterne e neppure, in quella logica spinta al suo estremo, neppure il potere giudiziario. Solo la legge. È il governo della legge e il governo della legge cade anche sul conoscere attraverso i mezzi probatori disciplinati essi stessi da regole normative. È ben noto, permetto di ricordarlo, ad esempio il concetto fondamentale di invalidità probatoria non esiste per il giudizio politico, non esiste per il giudizio dello storico, è invece l'essenza distintiva del conoscere processuale. La conoscenza è invalida perché non è ricercata, ottenuta secondo quelle certe regole. E più avanti, mi sono annotato a pagina 35, quasi in attesa ci giunge un'altra connotazione risolutiva per identificare questa categoria. Leggiamo, qui fra virgolette, Luigi è accusato. Dovete dunque ascoltarlo. Sospendere intanto ogni prevenzione, ed ecco la notazione che vorrei sottolineare alla loro cortese attenzione, dovete ascoltarlo, accusato, come se foste stranieri. È una parola veramente inquietante, veramente risolutiva. I giudici come stranieri. È l'esatta antitesi, ogni tanto lancio qualche raccordo ai giorni nostri, di quello che con le mie orecchie nel 1993, in un importante convegno di Saint-Vincent sul pubblico ministero, io sentii lanciare fra una platea applaudente da un magistrato di grande valore e illustre, Marcello Maddalena, che concluse: noi vogliamo il giudice parte. È l'esatta antitesi. Se senti il giudice come straniero, e in certi momenti il giudice come parte. Siamo agli opposti, a 180 gradi. Dunque, nell'avvocato De Sez è chiara ed essenziale l'idea del ius dicere come estraneità, l'idea del processo come uno spazio separato, una categoria che pretende ed esige come condicio sine qua non un dentro e un fuori. È un'idea primordiale che noi ritroviamo dentro di noi, almeno quelli della mia generazione, perché così ci è stato insegnato, oggi è poco di moda, che già nel digesto si imparenta con il divieto di scienza privata e, saltando secoli se non millenni, nella lettura ottocentesca ritorna continuamente nell'immagine del vaso processuale o nel brocardo quod non est in atto. Tante diramazioni, tante parentele che tutte si basano su questa idea di qualcosa che sta dentro, di qualcosa che deve stare fuori. Quindi la verità, la decisione, il conoscere in questo modello devono nascere, ripeto, dal di dentro. Esiste solo un dentro governato dalle regole. È il caso di notare che questa apparente stranezza, questa connotazione in termini di separatezza che identifica la categoria non caratterizza però solo il modello illuministico, il modello invocato ma non ritrovato da De Sez. Basti ricordare le ossessive cautele che nei paesi di common law, nei sistemi di common law, si usano e sono poste addirittura ossessivamente, come sto dicendo, per isolare i giurati nel momento che vanno procedendo al giudizio. Quindi è un qualche cosa diffuso anche in modelli diversi da questo illuministico, in certi modi il modello illuministico anche esasperato della legalità. Senza quelle regole che pongono, insisto, un dentro e un fuori, la categoria che noi siamo abituati a denominare processo penale perde i suoi contorni identificativi, può darsi che diventi qualche cosa di apprezzato anche, ma essa si affievolisce, si sgretola, il processo diventa un tutt'uno con volontà sociali, con prove, grazie, accuse, consensi, convincimenti formatisi socialmente all'esterno. Io insisto, perché io ho questo tarlo, e prima di proseguire inserirei qui una chiosa: ma non è forse assurda, incredibile, impraticabile questa idea di qualche cosa che separa il giudizio penale dalla società? In questa immagine deve essere inteso il processo come entità scorporata dal sociale e dalla volontà popolare? La risposta credo che sia contemporaneamente sì e no, al tempo stesso. Sì, scorporata nel senso che il sociale non può imporsi nel singolo processo. Non scorporata dal sociale, il processo non scorporato, nel senso che quei valori sostanziali, procedurali e anche epistemologici, perché la teoria delle prove è il cuore di un processo penale, quelle regole vengono poste dal sociale, quindi il sociale le pone, non è totalmente scorporato, ma tramite la legge. Questa è l'idea chiave e risolutiva. E così De Sez postula le formule salutari. Le forme, identica parola ritroveremo decenni dopo in Francesco Carrara e un secolo dopo ancora, ineccepibilmente diranno in termini di verità formale, parola perfetta, anche se adesso è poco di moda, diranno Carnelutti santa. E di procedura dans les règles aveva trattato il cancelliere d'Aguesseau a metà Settecento. Ma l'idea, per vero, non nacque con l'illuminismo, se è vero che, solo per fare un esempio, quantomeno nei giuristi francesi anteriori si trova scolpito questo concetto di formalité senza la quale il prodotto del processo penale degrada a violenza, forza, macchinazione. Sono parole che cito testualmente dalla letteratura anteriore. Ripetiamolo dunque. De Sez, quella causa si memoranda, come lui stesso la chiama, a pagina 35 di questa preziosa edizione, quella causa si memoranda e per noi esemplare ci tramandano come un dover essere addirittura l'apogeo di un modello basato sulla legalità. Ma insisto, ci tramanda anche quella ringa l'opposto, perché dopo quell'incipit che dà il brivido, dà veramente il brivido, il discorso dell'avvocato diventa tutto una ricognizione del modello antitetico col quale egli doveva combattere e di ciò che gli venne negato. Casualmente leggo, Luigi non sarà giudicato in base a leggi e regole precostituite, a pagina 9, sarà giudicato sarà la volontà popolare, non la legge, a giudicarlo, pagina 12, con prezioso rinvio a Rousseau. Non vi sarà scissione fra potestà legislatrice e potestà giudiziaria, verrà giudicato da chi palesò già il convincimento, pagina 14, non vi sarà facoltà di ricusare, pagina 13, e via discorrendo. Ecco perché dico che quel processo, quella ringa, così come il ventennio al quale ho già fatto cenno, che gli sta attorno a quel processo, punto saliente, segna contemporaneamente due culmini e ce li tramanda. Il processo per l'appunto legittimo, io direi più semplicemente il processo penale, e il processo governato da qualcos'altro che diventa esso stesso qualcos'altro. Ed De Sez è librato costantemente fra questi due poli, combatte sì per un uomo, ma combatte anche all'interno di questi due modelli, di questi due poli, la cui dissociazione crea tutta la drammaticità di quella arringa. Gli assunti di De Sez oscillano, ad esempio, ed è un esempio veramente prezioso anche sul piano della tecnica della procedura penale, ad esempio in materia di invalidità delle prove illecitamente acquisite. Egli ci dice, ma questa regola, tra l'altro modernissima, varrà anche per Luigi XVI e per Luigi. Cerca di trapiantare le regole probatorie anche nel suo processo, l'avvocato. Ma in un altro passo, se non fraintendo, a pagina 16, mi pare che ceda, demoralizzato, perché dice se stessi difendendo davanti a un tribunale legittimo potrei invocare quella invalidità probatoria. La questione è tanto interessante che chiedo perdono di poterla brevemente sintetizzare. De Sez sostiene la inutilizzabilità di carte sequestrate tramite perquisizione illecita. Leggo fra virgolette, non si può trarre prova alcuna contro di lui, ed è notazione preziosissima, ad esempio la ritroviamo in Cordero, quindi una inutilizzabilità per così dire, a doppio taglio, non si può contro di lui, dagli iscritti rapiti con l'invasione del suo domicilio. È ancora pagina 16. E prosegue. Ad esempio, non vi fu inventario, ma senza una tale cautela legale, è il metodo probatorio, sarebbe facilissimo, pronunzia il difensore, sto citando fra virgolette, sarebbe facilissimo alla nimicizia o alla malevolenza di intrudere nel piego suggellato carte contrarie o sottrarne le favorevoli. Senza la sacra formalità, notino, è la parola magica che ritorna, senza la sacra formalità le libertà del cittadino sarebbero esposte nel giorno al più imminente pericolo. Le carte di Luigi sono state dissipate. La legge, ancora l'altra magica parola, la legge non le ha prese sotto la sua custodia, quasi personalizzata la legge. Si è potuto, durante il tumulto dell'invasione, disperdere o sottrarre molte carte, quelle principalmente che avrebbero spiegato il senso di quelle residue che gli si oppongono. Dunque, ripeto, idea straordinariamente moderna, per cui anche nell'acquisizione delle prove cosiddette precostituite, anche nell'acquisizione delle prove documentali nelle quali parrebbe che il metodo nulla contasse, invece contano le regole, conta il contraddittorio nel senso di tutela difensiva e nel senso di un certo metodo. Quindi persino per le prove cosiddette reali è questa idea del diritto difensivo come garanzia epistemologica di verità. Non solo, noi siamo più abituati invece a averla questa concezione, per le prove cosiddette testimoniali, prove personali, la testimonianza in primo luogo. Ed è anche l'idea modernissima e tanto dibattuta oggi dell'invalidità probatoria derivata da un'altra illegittimità o addirittura da un illecito, da commissione di un reato. Ho voluto aprire questa piccola parentesi, mi perdoneranno, di tecnica della procedura penale per dire anche quanta finezza proprio sul piano giuridico stia in queste pagine che stiamo rileggendo. Ma ora abbandono l'esempio e mi scuso di aver aperto questa parentesi, che mi è sembrata però molto interessante per la tecnica della procedura penale e anche modernissima. Torno al filo principale e mi consentano, sintetizzo. Senso che De Sez dunque pone contestualmente e si dichiara però privato della categoria base, il processo come entità diversa, è questo che mi prende, da affermazioni esterne. E con ciò fissa l'idea di processo penale come qualche cosa che scinde un dentro un fuori, lo sto ripetendo, e questo qualche cosa che identifica e che crea la categoria, senza questo dentro o fuori non esiste il processo penale, sono le regole del diritto sostanziale, la procedura penale, anche la gnosiologia giudiziale. E qui vengono inquietanti gli interrogativi, eccolo il quesito, ma quel valore della legalità, quella scissione fra dentro e fuori, quei giudici come stranieri, mi consentano la provocazione, esistono davvero? Oppure quello di una legalità che governa è un mito, un'ipostasi, una ricorrente utopia, o persino una visione distorta, come lo vedremo fra un attimo, molti oggi, 1999, asseriscono. Non è un interrogativo capriccioso o strettamente personale. Non sono domande, dicevo, capziose, perché per saltare ai nostri giorni qualcuno ci riparla oggi, cito fra virgolette, di prova sociale del crimine, e qualcun altro, il procuratore Borrelli, ha parlato di sentenze già scritte dalla collettività in base alle indagini preliminari dei pubblici ministeri, e qualcun altro costituzionalista illustre ci parla di supremazia e di dipendenza, al tempo stesso supremazia e dipendenza dalla legge, come di un assetto ormai disgregatosi, e qualcun altro di una ingenua utopia, parole fra virgolette, con riguardo a un processo governato dalla legge, che esisterebbe questa ingenua utopia solo nella testa dei professori di casa nostra. Se così è, ingenua utopia fu quella scolpita in uno dei primi atti della Rivoluzione francese. Alludo al decreto dell'ottobre 1789, che aveva per l'appunto scolpito l'idea di una justice administrée selon la loi, secondo le forme determinate dalla legge, proprio la parola iniziale della legislazione di quel momento. Quando poi, ecco, nasce da lì, e per tutta l'Europa continentale, sia pure con molti sbandamenti, è arrivata fino alla mia generazione questa idea. E quando poi il discorso sulle forme, che sono dei valori, la parola forme non deve mai trarci in inganno, la forma è sempre il corrispondente di una scelta di valore, quando poi questo discorso si fa ulteriormente qualitativo, di lì, sempre di lì, nasce l'idea modernissima, sia pure malamente bistrattata da taluno oggi, il passo ulteriore, sto dicendo, quell'idea più selettiva e più moderna del giusto processo. Ora, prima di concludere sui nostri giorni, chiederei di poter fare un passo indietro, perché se il processo a Luigi XVI e se la memoria difensiva dell'avvocato De Sèze, lo sappiamo e ce ne stiamo rendendo conto, fu un vertice che pose le questioni capitali sull'idea stessa di processo penale, esso fu preceduto da un dibattito sul metodo dominato dalla figura di Robespierre, ricordata poco fa, di un livello, devo dire, straordinario anch'esso. Robespierre in quel momento almeno, seppure paradossalmente, nel sostenere che il re deposto, che per il re, al re deposto non si poteva applicare altro che una misura straordinaria di salute pubblica, proprio nel sostenere questo, a me pare che tributò un sia pure indiretto sommo omaggio e una consacrazione diede all'idea che oggi diremmo classica di processo penale. Perché, in estrema sintesi, questo fu l'assioma mandato avanti da Robespierre, si danno, diceva, scrisse nella serie di discorsi, sono parecchi discorsi pronunciati su questo problema, si danno circostanze, casi straordinari, l'evento di un popolo in rivoluzione che può imporre soluzioni diverse. A me non interessa questo corno del ragionamento, interessa invece l'altro, laddove si dice, eh sì, perché se invece facciamo un processo penale, dobbiamo sicuramente applicare quelle certe regole legali, perché senza quelle regole legali un processo non è tale, non esiste. A modo suo molto coerente. E quel qualcos'altro, hors de règle, sono operazioni. Chiama lui, sono atti politici o rivoluzionari, preferirebbe dire l'avvocato Fragasso, ricordando le belle pagine che ha scritto a commento in quel volumetto. Perché, dice, un processo selon la loi, dans les règles, deve porsi invece come dubbio. Penso che proprio su questo ci parlerà, anche su questo immagino, piena libertà, l'avvocato Fragasso, il processo come dubbio, che ha come sua essenza il dubbio, deve ricercare, dice, ragiona Robespierre, la verità giudizialmente al suo interno, non già assumerla belle fatta, ma dice, con non trascurabile finezza, se noi dubitassimo però delle responsabilità di Luigi carcerato, noi dubiteremmo della rivoluzione e quindi dubiteremmo anche di noi stessi. Non possiamo permetterci il lusso, ma sia chiaro che quello che affrontiamo non è un processo penale, perché un processo penale è altra roba. Mi si perdoni questa espressione un po' sbarazzina. Perciò, ripeto, a suo modo coerentemente, si potrà dare, conclude l'ex avvocato Massimiliano Robespierre, una misura di salute pubblica. E così vennero disegnate due categorie antitetiche, ancora una volta, ma a me pare che Robespierre sia stato, almeno in quella occasione, di una finezza non piccola, perché ci mette anche in guardia da qualche cosa che ci interessa molto al giorno nostro, ai giorni nostri. dice Robespierre, proporre un processo penale autrement, de quelque manière, con verità affermate dall'esterno, con giudici legati a determinazioni politiche, con accuse, rubo la parola ai giorni nostri, legittimate dal di fuori, sarebbe, e questa è parola sua, testuale, una ridicola commedia, sarebbero forme illusorie. E quindi quello straordinario dibattito, straordinario al pari dell'esperienza del processo che poi, del finto processo che poi seguì, ci tramanda in realtà tre figure, della quale quella intermedia è quella più inquietante, perché è difficile riconoscerla, è quella che può serpeggiare, che si può piegare e che si può anche non riconoscere. Da un lato dunque i processi penali con le loro regole legali, dall'altro al verso opposto le operazioni politiche o rivoluzionarie, in mezzo la crosta, l'involucro, l'apparenza del processo penale, tuttavia governata dal sociale, da prove e verità affermate all'esterno, da accuse legittimate all'esterno, da giudizi e da giudici governati da istanze esterne. Esce dunque da quella esperienza di 200 anni fa, a me pare, proprio la categoria che più allarma, inquieta, insidia, la più pericolosa, quella di processi che hanno l'apparenza tale di processi, ma hanno nell'anima e sono governati da qualcos'altro, sono frammischiati a qualcos'altro. E quindi è questa terza categoria che ci ripropone ancora una volta il quesito fondamentale: è dunque solo una ricorrente utopia quella di una verità accertata internamente, solo con mezzi disciplinati dalla legge, mi sto ripetendo, e di giudici, è solo un'utopia che interrogativo, che ascoltano e valutano e si convincono come stranieri, la parola provocatoria. E vengo con ciò alle battute conclusive, alle osservazioni conclusive, domandando ancora a me stesso: sono solo spettri lontani, spettri quelli evocati, oppure essi ci seguono ancora insidiosi e tentatori? Il sistema italiano, come ho cercato di illustrare in altre occasioni, di studiare in altre occasioni, in 30 anni a me pare fortemente slittato dall'essere concepito come governo della legge verso assetti ben diversi. Ad esempio, un esempio di questi giorni, l'articolo 227 della legge sul giudice monocratico, cosiddetta, il decreto 51 del febbraio 98, consacra una svolta un po' nascosta, quella norma, ma consacra una svolta epocale, devolvendo agli uffici giudiziari, non alla legge, niente meno che una selezione, perché questa è la realtà. È la realtà che sta dietro quelle parole. Ora non vi è tempo per un'analisi minuziosa, dicevo, che devolve agli uffici giudiziari niente meno che una selezione di ciò che si reprimerà penalmente e di ciò che non si reprimerà penalmente. Costituzionalisti illustri e storici di spicco ci avvertono che gli anni in cui, virgolette, padrone del diritto era il legislatore sono finiti, che l'epoca del primato della legge penale, proprio il filone derivatoci da quelle parole che ricordavo del decreto, l'articolo 19 del decreto dell'ottobre 1789, e che ora viene chiamato il legicentrismo, e che l'epoca della supremazia, subordinazione, dicevo anche prima, la legge sarebbe conclusa. Qui sono costretto, per ragioni di brevità, a fare un po' un collage, e mi scuso idealmente con chi ha sviluppato con molta cultura questi concetti, io ora vorrei citare testualmente. Tutto fra virgolette. I poteri in realtà sono molti, mentre la legge penale è giunta al suo punto del dinosauro. Finita. La legge non è più garanzia assoluta e ultima, ci si dice. Le esigenze dei casi valgono più della volontà legislativa. Ora stanno subentrando i principi nei quali, virgolette, è importante stabilire non è importante stabilire con precisione i precetti, perché ad essi principi si aderisce ed essi principi non pretendono un'azione conforme alla fattispecie, ma una presa di posizione conforme al proprio ethos. Al proprio ethos. Caspita. Caspita. Non è poco. Non è poco. Ecco questi nuovi modelli che ho dovuto forzatamente sintetizzare in quattro parole, modelli operativi e progettuali anche, negano anche loro quel modello che ci era stato scolpito con quel silenzio iniziale dall'avvocato De Sez, seppure poi gli fu negato. E a me pare che trasformino radicalmente l'idea stessa, almeno quella che ho io, di un processo penale. Ma non basta, e con ciò vengo all'ultimo punto. Perché nel modello evocato dall'avvocato De Sez, componente, lo sapevamo, mi sono permesso di ricordarlo poco fa, componente altrettanto essenziale della legalità, anzi inscindibile dalla legalità, è un'idea di accertamento e di verità non indotta dall'esterno ma raggiunta da dentro. E anche un processo in cui si sentenzi invece in base a prove sociali, parola che ho rubato alla stampa di questi anni, alle prove sociali del crimine, un processo nel quale si sentenzi sotto l'influsso di consensi collettivi, di fatti verificati o falsificati dal di fuori, falsificati nel senso epistemologico del termine, a me pare che perda la sua identità, ma anche qui ci attendono docce fredde, freddissime, con riguardo ai nostri giorni, perché si sta diffondendo ci attendono altre sorprese, perché sta nascendo, si sta diffondendo, sia come fotografia dell'esistente, sia come proposta progettuale, un modello di epistemologia giudiziale che mi sembra innegabilmente inquieti e non poco. Anche qui cito testualmente, sia pure inevitabile, a frammenti, un pensiero ricco e colto. Il fatto di reato, si dice, è null'altro che il risultato di un costruire. La decisione sulla questio facti, tutto fra virgolette, si pone solo in termini, prego di notare, di opportunità, preferibilità, virgolette, attese sociali. Perciò, proseguono queste elaborazioni, l'accertamento di un processo penale dipende da atti di consenso o dissenso della collettività, per tale intendendo pure, lic et nunc, della comunità, dei politici e dei media. Tutto fra virgolette. E qui faccio la piccola chiosa, che penso venga però istintiva a tutti coloro che cortesemente mi stanno ascoltando. Scrivere questo significa che quel fatto di reato sia stato commesso, che l'abbia commesso Tizio, che Caio fosse in dolo di concorso di persone, dipenderebbe non dalla verità ma dalle attese, dai consensi della comunità, compresi i politici e i media. Francamente, se le cose stanno o stessero così, io non so o non saprei vedere gran differenza dalla notorietà pubblica di allora e dalla preuve dans le coeur dei tribunali rivoluzionari. Ma proseguiamo a leggere, e stiamo leggendo parole del 1998. Il giudice non deve stabilire che il fatto è o non è vero, stabilisce gli accadimenti, aggiungo io queste sole parole, perciò condannando o assolvendo, non è poco, secondo l'orizzonte delle attese. È molto chiaro il pensiero, non si scappa. Dunque, non la verità, ma i consensi e le attese, e quindi, ora cito fra virgolette, è la comunità, compresi i partiti politici e i media, che si fa la comunità in certa misura decidente, organo decidente. E qualche studioso di scienza dell'organizzazione giudiziaria, di grande cultura anch'egli, pur in contesti e con conclusioni per vero diverse, però ha fatto eco nel 96 evocando, virgolette, una verità che sta nel popolo, il quale è ora rappresentato attraverso i media, mass media, dal giudice. Non sono parole dell'aprile 1793. Ed è abbastanza palese che siamo mille miglia dai giudici invocati, pretesi e non ritrovati da De Sez come stranieri, e siamo a un passo da quella notorietà pubblica in presenza della quale il ne sarà point entendu de témoin, non ci sarà neppure bisogno di testimoni se c'è questa notorietà pubblica. Certo, desidererei essere schietto in queste ultime parole, noi non dobbiamo indulgere e pensare che queste immagini siano una fotografia reale di ciò che accade nei nostri palazzi di giustizia, anzi io ne ho la sicurezza, non dobbiamo indulgere a parallelismi forzati o rozzi o prevenuti. Conosciamo le differenze fra oggi e 200 anni